Torna un nome mitico dell'automobilismo che ha rappresentato una delle vette più alte della storia di Lancia. Ma la nuova Delta, pur mantenendo il DNA tradizionale del marchio, è profondamente cambiata. Innanzitutto nelle dimensioni e nella linea, aspetti che segnano il ritorno della casa torinese in un segmento in cui mancava da tempo, quello delle berline medie. Un'auto originale che si mette in competizione anche con vetture di categoria superiore, puntando a conquistare con eleganza e versatilità una clientela ancora più ampia.